l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua in diretta, 17 prima e 5 secondi dagli studi della Piovosa Milano di Radio 24, ma più caldi e assolati che mai nel cuore, noi compari dei Conti della Belva vi auguriamo un buon sabato e buon inizio e fine settimana. Oltre alla voce da paperoga di Oscar Giannino con in studio, i compari molto più degni delle vatte di lui, cioè Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. E più tardi ci raggiunge naturalmente il nostro imprenditore d'assalto Renato Cifarelli. Allora, cari ascoltatori, vi dico subito di cosa parliamo per invitarvi a telefonare. 800 24 00 24, e le opinioni 349 238 6666. Oggi l'intera puntata, in realtà, tranne un pezzetto alle 11:30, è dedicato al referendum. Il referendum dal punto di vista dei costi economici e delle conseguenze economiche. E cioè, noi ci poniamo in una prima parte della trasmissione il tema: ma quanto si risparmia davvero sugli costi della politica, gli organi costituzionali con il referendum se passa al sì? 500 milioni, mezzo miliardo come dice il sì, oppure molto meno? Ecco, avremo due voci contrapposte, perché il professor Ugo Arrigo, che insegna in Bicocca a Milano, ha scritto no, non sono 500, non arrivano a 50 facendo bene i conti, e poi invece per il sì un altro professore universitario, insegna microeconomia a Bologna ed è attuale consigliere economico di Renzi, cioè il professor Luigi Marattin. Poi dopo le 11 però ci poniamo il problema più ampio raggio, perché come avete capito dalle conseguenze del sì e del no dipendono, a seconda di chi sostenga l'argomento, conseguenze economiche a largo raggio sull'intera economia italiana. Si bloccano tutti gli aumenti di capitale delle banche, che cosa succede allo spread del debito italiano rispetto a quello degli altri paesi dell'euroarea, è vero che si bloccano tutti gli investimenti italiani ed esteri? Ecco, ci poniamo il problema più ad ampio raggio, e sarà con noi Gianluca Codagnone di Fidentiis, e soprattutto noi vogliamo sapere da voi, chiamateci, ma voi pensate davvero che il rilievo del referendum, invece che sulle cose su cui si decide, debba inevitabilmente tenere conto dell'impatto economico finanziario, oppure pensate che siano due temi diversi e anche un po' sopravvalutati a seconda di chi li sostiene? Ditecelo e chiamateci all'800 24 00 24. Alle 11:30 ci occupiamo anche della nostra rubrichetta sulla comunicazione, di una cosa che ha detto la Banca d'Italia questa settimana rispetto a quello che diceva, e trovate ancora sul sito l'anno scorso sulla BRRD. Questo è il quadro, ma aggiungiamoci le cose che ci hanno colpito in settimana. Naturalmente cominciamo tra poco poi con Mario Seminerio la sua rubrica sugli aggiornamenti. Ma Mario, oltre a questo? Ma io sto seguendo con un qualche divertimento le vicende degli amici britannici che stanno cercando di trovare l'uscita, anzi la chiave per aprire la porta dell'uscita, e stanno cercandola sotto il lampione illuminato, diciamo, mi pare proprio... Abbiamo delle forme di ubriachezza, come dire, abbastanza molesta. Per esempio ieri c'è stato il patron della Nissan che è andato al 10 di Downing Street a parlare con la Premier Theresa May, a chiedere e a cercare rassicurazioni, perché Nissan ha un importante impianto di assemblaggio di auto a Sunderland, il più importante, e chiaramente per ora, diciamo, ha congelato gli investimenti in attesa di capire di che morte morirà, e però ha chiesto al governo britannico di avere sussidi in caso la Gran Bretagna esca dall'unione doganale e quindi ci sia una tariffa esterna da pagare. Non sappiamo se gli sono stati promessi, alla fine c'era la soddisfazione di turno, eccetera, di Pragmatic. Però la cosa che mi ha colpito molto è che pare che nel governo britannico si stia facendo strada l'idea di una uscita dall'unione doganale alla carte, cioè loro escono, però i settori che sono dentro le filiere globali, le catene globali del valore, come per esempio auto e aerospaziale, resterebbero nell'unione doganale. Cioè si creerebbero del gigantesche, come il comune di Livigno, no? Come una sorta di Porto Franco, dove gli impianti di assemblaggio delle auto e dell'aerospace sarebbero dentro l'unione doganale. Il che è bellissimo, perché proprio dimostra due cose. Una, che i politici britannici non hanno capito nulla di che cosa implica un hard Brexit, E la seconda che consegue dalla prima è che i politici britannici all'occorrenza riescono ad essere più cazzari di quelli italiani. Che ce ne vuole molto, soprattutto di questi tempi. Per cui una piccola nota di orgoglio patrio, diciamo, c'è qualcuno che è più cazzaro di noi. Poi una cosa molto rapida, en passant, faccio presente che il Brasile sta votando una modifica costituzionale che per i prossimi 20 anni metterà un tetto alla crescita della spesa pubblica, cioè la spesa pubblica brasiliana potrà crescere soltanto in misura pari al tasso di inflazione, quindi tasso reale di crescita zero per i prossimi 20 anni. E riforma delle pensioni... Da cui viene il grosso dei risparmi di spesa e verrà presentata, pare, a inizio 2017. Per cui, sovranisti, la come sovranità, vedete, ecco, la realtà è sovrana, diciamo, da ogni angolo del globo, non potete nascondervi. Cari ascoltatori, che entrambe le notizie sono un'amara lezione che i fatti. C'è un filo rosso. Ti danno a quelli che dicono torniamo alla liretta e andiamo alla schiscetta, e invece non funziona così. Allora, caro Alberto. Ah, io devo festeggiare il lancio di un nuovo modello della Piaggio. Si chiama Ape Social. E dopo l'Ape Car, come sapete, trasporta in triciclo le patetiche, non so come chiamarle, politiche sociali. Porta rispetto agli anziani. Ah, sì, gli anziani sono tutti usurati, poverini, dobbiamo aspettarli. No, la verità è che già l'Ape è discutibile in un paese che, secondo i dati di Eurostat di ieri, non supera il 63-64% di tasso d'attività ed è il più basso d'Europa, contro l'80% della Danimarca, della Svezia. Quindi abbiamo un tasso d'attività da, da paese di terzo mondo, eppure la priorità del governo è caricare sull'ape social i lavori usuranti, facilitando appunto infermieri di sala operatoria, maestre di scuola d'infanzia, che perché sono mestieri ovviamente rispettabilissimi, ma ci dobbiamo porre un problema di equilibrio generale. Quindi mi spiace, ma per quanto ci possa essere, ci debba essere forse un recupero di alcuni errori nel progetto della legge Fornero, non penso che i prepensionamenti siano la priorità fondamentale di questo paese, e soprattutto i pensionamenti a carico della collettività. E lasciami dire che, a differenza di quanto fatto trasparire dai giornali, ma da quello che si sta capendo in questi giorni, tra l'altro per stasera dovrebbe essere varata da finanziare, anche nella componente volontaria dell'APE, quella che è stata presentata incessantemente come gli anni di rate anticipate integralmente a carico di chi sceglierà di andarci con almeno 20 anni di contributi, ecco, la realtà è invece diversa. Fatti bene i conti, l'anticipo a carico di chi eserciterà questa opzione dal prossimo maggio non copre affatto la proiezione attuariale del costo complessivo di beneficiare per più anni del trattamento, e quindi l'abbattimento del valore non è assolutamente proporzionato, perché la componente di assicurazione per l'anticipo bancario e controassicurazione sull'anticipo bancario è a carico dello Stato. Quindi, per essere chiari, il giudizio che noi diamo è ancora più fondato, perché neanche la componente di pura flessibilità volontaria è integralmente a carico di chi la esercita, ma non sarebbe potuto che essere così. Secondo, aggiungo, il governo quest'oggi sui giornali flette i muscoli dicendo la componente, diciamo così, quella degli disoccupati eccetera eccetera e quella distinta degli usurati ha dei requisiti contributivi molto più alti, cioè 30 e 36 anni. In Parlamento queste cose non reggeranno, per essere chiari, questo governo lo sa benissimo, al Senato non reggeranno. E quindi si andrà a quel miliardo e sette che il governo dice di metterci, perdonatemi, ma è una commedia che i sindacati sanno perfettamente, troverà al Senato un esito completamente diverso. Quindi gli anni di contributi scenderanno molto significativamente, aumenterà l'esborso a carico dell'INPS, cioè della fiscalità generale, e tutto questo in un paese che ai giovani dice marameo. Perché questo è il punto di fondo, in un paese che vede l'esplosione dei voucher, confermata anche questa settimana, a livelli veramente a questo punto preoccupanti, perché io sono per la flessibilità, però insomma non a questi livelli e in questo modo, per così dire. E va bene, continuiamo così. Tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, le tempi di Scipio finita e la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci tornati, e con la nuova, dopo l'estate l'abbiamo cambiata, la nuova sigletta. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non mi preoccupare. Eccoci qua, alla cronoscrittura dei segnali perché ci ricordano che dobbiamo morire. No, non è così. Mario. Ma questa settimana devo dire che come dati economici non c'è nulla di grandemente rilevante, se non il dato di produzione industriale italiana e non solo di agosto, che è stato un trionfo, perché c'è stata questa crescita mensile che è stato un boom. Abbiamo avuto più 1,7% di agosto su luglio, più 4,1 da un anno all'altro, e questo ha indotto, diciamo, alcuni olimpionici plurimedagliati, campioni della nota disciplina olimpionica del lancio dell'ANSA, a lanciarsi, diciamo, e a dettare alle agenzie frasi trionfalistiche del tipo: il paese è ripartito proprio in agosto, cioè in un periodo in cui normalmente le industrie sono letargiche, abbiamo raggiunto il top dal 2011. Questo è un segnale chiaro e netto che il paese è ripartito. Dopodiché uno, diciamo, che non soffre di questa sindrome dell'ombelico, quindi riesce a posare gli occhi anche altrove rispetto all'ombelico, va a guardare un po' i dati europei, che ti trova? Ma ti trova Olanda più 4,4% mensile, Francia, la moribonda Francia, più 2,1%, Spagna, fanalino di coda, più 1,4%, Germania più 2,5%. Questo per dirvi cosa? Che ad agosto è successa un'anomalia statistica che a settembre, cioè quando il dato verrà pubblicato il mese prossimo, verrà con alta probabilità riassorbita. Infatti ci sono stime, ad esempio del Centro Studi Confindustria, ma non solo, che vedono una contrazione di segno uguale contrario il mese prossimo rispetto a questo mese. Anche perché diciamo il trend di crescita della produzione industriale sta tra lo 0,1 e lo 0,2% in questo momento in Italia. Il trend. Per cui prosegue, caro Carlo Alberto, prosegue questa tradizione di prendere un singolo dato e proiettarlo nella stratosfera. Sì, no? Al di sotto di ogni soglia di errore statistico, peraltro. Ma stiamo parlando veramente di microdecimali. No, ma assolutamente. Per cui il problema resta quello. Tra l'altro, nei commenti, nella audizione successiva sulla metodologia della nota di aggiornamento al DEF, il ministro Padoan ha detto: siamo fiduciosi su una crescita maggiore, anche perché, diciamo, avete visto il dato positivo di produzione industriale del mese di agosto, che lancia praticamente il terzo trimestre e quindi trascinerà al rialzo. Entriamo nel 2017 con un trascinamento di crescita. Ora, vabbè, ci vediamo tra 3 settimane, più o meno, 4 settimane, quello che è il dato, e poi ne parliamo. Però resta l'analfabetismo statistico di un paese disperato. Quindi però vogliamo dire che per la prima volta nella storia c'è un contrasto pubblico tra l'ufficio parlamentare e il ministero. È un segnale preoccupante ma interessante di dibattito interno. Se posso dire, nel merito sono contento che il Parlamento... Tu dici nel merito sei contento? No, di che cosa non ho capito però? Del fatto che il Parlamento dica non sono d'accordo e che non si inginocchi. Esiste, dobbiamo parlare di riforma istituzionale. Posso dire che il dissenso motivato e secondo me fondatissimo dell'ufficio è in questo senso un segnale inatteso e assolutamente sorprendente e abbastanza strano in una democrazia occidentale, però è un bel segnale, vuol dire che ci sono forze indipendenti. Io ti dirò che proprio perché abbiamo incardinato un ordinamento, virgola, con una riforma delle procedure di bilancio tesa a voler dare alla terzietà dell'esame delle stime dei conti del governo più forza e incisività, perché l'ufficio parlamentare del bilancio non è più il vecchio servizio bilancio di Camera del Senato, ha proprio una terzietà diversa, molto più accentuata. Ecco, il fatto che Padoan abbia preso alla prima esperienza a schiaffi e a calci l'ufficio parlamentare di bilancio, ponendo il pericoloso precedente che leva ogni credibilità a questa riforma, per me è molto grave. Io penso che anche che i grandi giornali italiani l'abbiano proprio sottovalutata questa faccenda, cioè non gli abbiano dato alcuna importanza. Come dice, vabbè, ufficio parlamentare di bilancio, ma che cazzo vuoi? L'ufficio parlamentare di bilancio è stato creato assieme alla modifica dell'articolo costituzionale sull'equilibrio di bilancio, per cui probabilmente viene considerato una forma di, come dire, occupazione teutonica del suolo italiano, per cui alla fine, sai, allora, è giusto che questi tecnici vengano umiliati, diciamo. Viva la discrezionalità. del resto vi faccio notare, cari ascoltatori, che vi avevano raccontato che la riforma della procedura di bilancio, quella che entra in vigore quest'anno, con i tempi e gli strumenti delle procedure di bilancio modificate, avrebbe impedito le clausole di salvaguardia, che invece, da quello che sappiamo delle anticipazioni, restano per l'IVA nel 2018 e 2019. Quindi, come vedete, l'Italia poi, quando vi raccontano le riforme, adesso cambierà tutto, poi le interpretano come capro vogliono, perché questa cosa delle clausole di salvaguardia è veramente clamorosa, no? È clamorosa. Che pure sono un flessibilista, torno a rompere le scatole sul settore dei voucher, trovo abbastanza indigeribile, ma veramente abbastanza indigeribile, che il totale del lavoro dipendente, se uno deve farlo, sul totale del lavoro dipendente italiano dei voucher sia l'8,8% di una roba che sul totale del costo del lavoro vale lo 0,02%. Cioè, avete capito? Sì, sono questi i numeri. Non 0,02, ho messo uno zero di troppo. Lo 0,23% del totale del costo del lavoro a fronte dell'8,8% del lavoro impiegato. Capite che è una roba micidiale. Per dirla io, qui sono un flessibilista e non sono uno che scrive sul manifesto, vuol dire che è macro evidente che c'è una cosa che non funziona, no? Ecco, invece un piffero di niente, anche questa roba qua. Siamo in quattro gatti che ci occupiamo di questi numeri del mondo del lavoro a sottolinearla. Però, siccome bisogna dire che è stato un successo, allora no, non bisogna sollevare nessun problema. Dai, ragazzi. Allora, oltre a questo, la settimana, ne parliamo poi dopo, anche quando andiamo all'esame delle conseguenze sugli aumenti di capitale delle banche in corso sul referendum, però ci ha portato anche una significativa novità, caro Alberto, perché non c'è solo l'app social, le maestre usurate, eccetera, eccetera. E beh, lo Stato finalmente, dicono i dipendenti bancari, abbatte un muro. E mentre fino a oggi fieramente il sistema bancario italiano diceva "i nostri esuberi ci pensiamo noi", questa settimana sappiamo che ci penserà l'INPS, eccoci, a dare qua anche lui un po' di soldi per gli esuberi bancari. Anche questo è un segnale di cambiamento dei tempi. Da un certo punto di vista, bentornati agli amici bancari nel novero dei lavori normali. Quando fare il bancario sembrava essere un privilegio, non lo è, purtroppo può essere difficile, duro, bellissimo, importante, fondamentale per una nazione, ma ecco, un po' mi dispiace che invece che investire in politiche di employability, cioè di riqualificazione professionale, di nuovo il compromesso si trova su dove? Prepensionamenti, contributi dell'INPS all'uscita, quando ci sono professionalità dentro in banca che, scusa, meriterebbero, anzi meritano un diverso investimento delle risorse pubbliche. A me spiace moltissimo che la prima cosa a cui si pensa di fronte a un necessario processo di profonda ristrutturazione degli organici della struttura organizzativa del mondo bancario, la prima cosa a cui si pensa è come facciamo a liberarci quei prepensionamenti. Però sembra che il paese abbia in mente solo quello, prepensionare. Sai che il buon ministro ha in mente che per ogni due o tre pensionati almeno un giovane lo tiriamo fuori, vero? È un rapporto strano, una cosa francamente mai studiata nella storia della... Aspetta, qui bisogna che noi aggiungiamo una cosa per chi ci ascolta, perché questo è un argomento popolare molto più di quanto non si creda. Cioè tipo staffetta, sì, la famosa staffetta. Dai, passami la staffetta, Oscar! Quello, il lamp, no? L'argomento lamp, per così dire, per cui è solo una somma e si fa l'effetto, però la gente è convinta. Ma in definitiva, come vedete, i giovani siete i primi, caro Carlo Alberto, Cannavale Maffè, Mario Seminerio, a ricordarci ogni settimana che le imprese non hanno preferito assumere i giovani, anche malgrado la generosa contribuzione, hanno assunto gli over 50, quindi se noi abbiamo meno over 50 si apre lo spazio. Ecco, questo è l'argomento al quale bisogna dare una risposta. La mia è che, come si vede, le imprese continuano a preferire, non è che preferiscono i più anziani, chissà per quale ragione, perché preferiscono avere skills già formate, cioè capacità già formate. Finché c'è un esercito di riserva molto rilevante, che continua a esserci, di disoccupati e cassi integrati già formati, è ovvio che le imprese preferiscono questo. Ma però è contraddittorio, scusa, se le imprese, e secondo me in certi casi saggiamente, preferiscono professionalità già formate, allora che senso ha prepensionare i cinquantenni, bravo, quando con un piccolo sforzo, bravo, possiamo affidare, per esempio, compiti relazionali? Ma sono il banking ha bisogno di prendere per mano il più stupido e ignorante popolo sulla terra, che sono, purtroppo siamo noi italiani, in tema di allocazione dei propri risparmi, e portarlo lentamente verso un'educazione più equilibrata. Diamo questo compito a bancari stagionati, brizzolati, che sanno che cosa dire. Gli spieghiamo bene l'educazione finanziaria, arriva MiFID 2 l'anno prossimo, mi sembra un'occasione splendida per dare a questa gente un compito anche di tipo sociale, se posso dire. E invece no, dai, paghiamoli per stare a casa, almeno liberiamo spazi, praterie per i giovani che sicuramente verranno arruolati. Per i giovani robot. Per i robot advisor, liberiamo spazi per i robot advisor. Questo mi pare assolutamente evidente che finirà così, cari amici della Belva. Lo so, ma questa settimana quindi non c'è niente di positivo. E siamo sempre a criticare, ragazzi, però è su. Vedete un po', adesso per esempio, io scusate cari ascoltatori, come... Il martellamento della manovra in arrivo è durato 6 mesi. È da 6 mesi che i giornali ricevono anticipazioni tutti i santi giorni delle cose della manovra. Vi leggo alcuni titoli di stamattina per farvi capire l'evidente mira, no? In vista del referendum. Allora, per esempio, Corriere della Sera apre: pensioni, le regole per l'anticipo, lavori gravosi, via prima, eccetera. La Stampa: meno tasse per chi assume giovani, e così via. Allora, volete che continui? La Repubblica, tanto è evidente che c'è dietro la politica, che infatti La Repubblica dice: manovra stretta sulla sanità, che qui dice: ah, non è tutto positivo. Però poi seconda riga: assunti medici e professori precari. I professori precari sono stati assunti con la legge della buona scuola, non so quante volte ce la dobbiamo vendere, però d'accordo, rivendiamocela. Il Fatto Quotidiano, che sapete è impegnato per il no, assolutamente, farmaci più costosi del 1500%. Allora, questi banali titoli che vi sto elencando sono la dimostrazione di come, perdonate, io sono giornalista, sì, molto autocritico verso la mia categoria, verso me stesso anche, noi per primi come giornalisti ci prestiamo troppo a questo gioco, perché questi 6 mesi di anticipazione degli anticipi previdenziali della manovra, poi naturalmente le cifre all'ultimo momento si sono rivelate completamente diverse da quello che il governo ci aveva detto, sono un'esca politica, e questo purtroppo c'è poco da fare. Il nostro paese, come tutti, il ciclo elettorale c'è dovunque della spesa, ma da noi l'informazione è troppo proclive ad assecondare questo. Io chiedo a voi, che queste due esterne non ci avete, cioè in realtà uno c'ha la testa da pubblicista in tasca, Mario, esatto. E Carlo Alberto ce l'aveva da ragazzo poi per fortuna si è messo a fare il professore universitario, eccetera. Carlo Alberto, allora, da esterno come si fa a essere più indipendenti? Beh, non si spezza questo circolo dell'autoreferenzialità e del conflitto di interessi finché, scusa, l'editoria non ridiventa autonoma finanziariamente e politicamente, e invece non lo è, perché è ancora soggetta a sussidi, buona parte dei suoi soldi derivano, diciamo, da spese forzose imposte dallo Stato, buona parte delle sue logiche sono purtroppo legate a doppio filo. Non mi far parlare del gruppo editoriale che ci ospita, perché, come dire, sarebbe una lunga storia. Okay? Dillo, perché poi qualcuno dice che siamo omertosi e autocensurati. Ho twittato invitando i colleghi anche del Sole su questo argomento, è in gioco la credibilità complessiva. Io sono un esterno, però è inutile non vedere che noi riceviamo un mucchio di mail e di telefonate dicendo: già, voi vi fate le bucce a tutti, ma non ai conti del Sole. E io infatti ho fatto l'esempio. E i conti della radio, però siamo in radio, i conti della radio vanno male, costa poco, fa fine e non impegna, se posso dire. Si può migliorare ancora sulla tecnologia, dovremmo migliorare al digitale. E sia pur modesto, utile. Benissimo. Quindi. Sul resto dobbiamo ancora capire chi ha ragione, se posso dire, anche se i segnali sono preoccupanti. Comunque, ricordo per esempio, giusto l'ultimo segnale, se non sbaglio, proprio un paper fatto da Luigi Zingales, che fece un'analisi sull'indipendenza del media italiani proprio sul tema bancario, e scoprì che c'era una elevata correlazione fra la propensione a parlare bene o a tacere del sistema bancario e il livello di indebitamento dei gruppi editoriali. Ecco, come vedi, poi un po' di ricerca scopre gli altarini, caro Oscar. E allora, cari ascoltatori, non vi resta che coltivare con ancora maggiore convinzione l'ascolto di chi magari un po' rompe le scatole come noi. Tra un minuto ci sentiamo. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. 10:34 primi 53 secondi, eccoci qua in diretta dagli studi ovviamente di Milano con Oscar Giannino e compare dei Conti da Belva, Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè. Ed ecco quindi iniziamo in medias res, la prima parte della trasmissione dedicata all'analisi degli effetti del referendum 4 dicembre, riforma della Costituzione, su costi della politica, costi delle istituzioni. E la domanda è secca. Sono fondati, appaiono fondati, sono riconfermabili a un'analisi terza e tecnica della struttura dei costi che ci è nota, degli organi la cui composizione e struttura è modificata dalla riforma. Ecco, ne esce confermata la stima intorno al mezzo miliardo di risparmi a regime annuali con meno costi della politica e meno costi delle istituzioni, oppure no? Ecco, allora abbiamo su questo tema due persone, non dico due partiti, ma due punti di vista diversi nei confronti del referendum e nei confronti di questo quesito in particolare. Perché abbiamo chiamato, leggendo con attenzione quello che ha scritto esattamente su questo tema, approfondendo voce per voce tutti i diversi organi toccati dal quesito della riforma, il professor Ugo Arrigo, che insegna Scienza delle Finanze e Finanza Pubblica all'Università Bicocca di Milano. Grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. A cui chiederemo tra pochissimo di sintetizzare perché la sua risposta a questa domanda è no, i risparmi sono molto meno di quanto vengono indicati all'inizio, e per rispondere invece dal punto di vista opposto e a favore del referendum, un altro docente, il professor Luigi Marattin, che insegna macroeconomia a Bologna ed è attuale consigliere economico di Renzi. Grazie di essere con noi, Marattin. Buongiorno, grazie a voi. Allora, direi che la cosa migliore dal punto di vista dialogico e degli argomenti è cominciare con la critica. Quindi, professor Ugo Arrigo, ci dica perché, ci metta anche qualche minuto, perché bisogna entrare nei dettagli per far capire con didascalicamente a chi è in ascolto, perché lei dice no, la cifra è enormemente gonfiata ed è molto più bassa. Ah, diciamo, intanto sono andato a fare questi calcoli perché mi ha insospettito il fatto che nel 2014 i risparmi venissero annunciati in un miliardo tondo e poi si siano nell'arco di un anno e mezzo dimezzati. Anche la, diciamo, questa presenza di cifre sempre tonde, sempre un po' sospetta. Allora ho detto, beh, proviamo a rifare i calcoli. Com'è possibile che si risparmino 500 milioni all'anno quando il Senato, che è la principale riforma attuata, ne costa complessivamente di meno di 500, e quasi metà di questi 500 milioni sono in realtà pensioni agli ex senatori e agli ex dipendenti del Senato? E quindi è un po', insomma, era necessario fare degli approfondimenti. Allora ho provato voce per voce. Sono andato a prendere il bilancio del Senato 2015 consuntivo, un bilancio che chiude con un po' meno di 500 milioni di spesa totale, ma di questi quasi 220 sono pensioni. Quindi, diciamo, i costi di funzionamento del Senato sono sui 280, arrotondo sempre un pochino anch'io. Però di questi 280 gli stipendi, le indennità ai senatori in carica sono poco più di 40 milioni all'anno, 40,2. Quindi nel passaggio da un senato remunerato a un senato molto più ridotto, in cui i senatori non sono remunerati per questa funzione, questi 40 milioni si risparmiano. Il bilancio del Senato risparmia 40 milioni, le casse pubbliche risparmiano 40 milioni meno il mancato introito delle imposte dirette sui 40 milioni, quindi il risparmio per le casse pubbliche si riduce a 25. Un'altra voce importante sono le diarie e le indennità di funzione, sono per tutti i senatori 36 milioni all'anno, si può pensare che si risparmino pro quota quelle relative ai senatori che non ci saranno più, quindi diciamo i senatori passano da 320 a 100, su 220 senatori si risparmia questa spesa e quindi il risparmio sarebbe di circa 24 milioni all'anno. Anche qui però lo Stato non incasserà delle imposte su tale cifra, quindi la mia stima è sui 19. 19 di minori diarie più 25 di minori indennità di funzione fanno un risparmio di 44 milioni. E quindi siamo molto distanti dalla cifra dei 500 milioni all'anno dichiarata. Ne poi ci arriviamo però, con le province e il CNEL. Però bisogna anche, no, c'è ancora un pezzettino. Ovviamente cosa fanno i senatori che non vengono riconfermati? Perché non è che vanno a fare i sindaci o i consiglieri regionali, e vanno in pensione. Quindi io dei 44 milioni di risparmi del Senato ho tolto una stima di 4 milioni in più all'anno per maggiori pensioni ai senatori rottamati. Quindi il risparmio si riduce sui 39-40. Riguardo alle province, il costo della politica, il costo dei vertici politici delle province non c'è più dalla legge del Rio del 2014. E quindi è un risparmio che sì, è stato fatto, ma non c'entra nulla con i cambiamenti della Costituzione. E la stessa cosa si può dire anche del CNEL. Il CNEL costa, per arrivato a costare quasi 20 milioni all'anno, poi la spesa è stata ridotta, hanno sostanzialmente dimezzato i numerosi consiglieri del CNEL, però dal 2015, dalla legge di stabilità per il 2015, i consiglieri, il presidente del CNEL non sono più remunerati e quindi anche questa spesa è già stata risparmiata, erano 1,9 milioni all'anno. E il CNEL, al di là di questa spesa, resta con una spesa di circa 7 milioni, 5 milioni sono i compensi dei dipendenti e 2 il costo della struttura, però i dipendenti non li licenziano, la struttura non la privatizzano, non vendono all'asta Villa Lubin, e quindi sono costi che in capo alle casse pubbliche resteranno, anche se non si chiameranno più costi del CNEL. Quindi la mia stima sui risparmi totali è, insomma, nella migliore delle ipotesi, sui 40 milioni all'anno. Sui 40 milioni all'anno. Che comunque è irrisoria, però io vorrei anche far notare che anche il miliardo sarebbe stato irrisorio e trascurabile su 830 miliardi di spesa pubblica. Sì, detto questo, tra 40 milioni e un miliardo c'è una differenza, per così dire, molto apprezzabile. Allora, sentiamo che cosa ci dice invece il professor Luigi Marattin. Prego. Sì, dunque, intanto mancano alcune voci, nel senso che i risparmi della riforma non sono solo l'intervento sul Senato, e comunque l'intervento sul Senato deve comprendere anche il cambio del funzionamento del Senato, quindi i rimborsi ai senatori, il funzionamento dei gruppi parlamentari, i risparmi derivanti dal fatto che il personale del Senato non deve più assistere 315 persone, ma deve assistere 100, quindi c'è qualcosa di più, e soprattutto manca la parte sui consigli regionali. La riforma abolisce i rimborsi ai gruppi consigliari regionali e soprattutto interviene sugli stipendi dei consigli regionali. Noi viviamo in un paese in cui in molte regioni d'Italia un consigliere regionale arriva a prendere 15-20 mila euro al mese. Nella riforma c'è scritto che non potrà prendere più del sindaco del comune capoluogo, che fra l'altro si prende molte più responsabilità di ogni tipo rispetto a un consigliere regionale. È chiaro che in questo caso parliamo di risparmi dell'aggregato, del consolidato, della pubblica amministrazione, non dell'amministrazione centrale dello Stato. Quindi mancano alcune voci e la somma di tutte queste voci arriva significativamente sotto i 40 milioni che diceva il professor D'Arrigo. Sulle province, fatemi dire una cosa, occorre conoscerla bene quella riforma, è ovviamente corretto che grossi risparmi sono già stati cifrati nella riforma D'Arrigo, però al momento in capo alle province ci sono ancora gli strumenti fiscali, l'IPT, l'imposta provinciale di trascrizione e l'RC auto, e due funzioni fondamentali importanti, scuole e strade. Nel momento in cui le province spariscono dalla Costituzione, si creano le condizioni per fare il secondo tempo della riforma del Rio, quindi l'accentramento degli strumenti fiscali in capo allo Stato e soprattutto lo smistamento di quelle due competenze, se il governo lo deciderà, in capo ad altri enti. Quindi è quella un'ulteriore opera di razionalizzazione di economia di scala che porterà, secondo noi, significativi risparmi ulteriori. In ogni caso, qualunque siano i risparmi diretti, invito fra l'altro, guardi, noi siamo qui a Palazzo Chigi, chiusi chissà fino a quando, per provare a lottare sulle decine di milioni di euro per la legge di bilancio di stasera. Quindi, per esempio, invito innanzitutto, ma non l'ha fatto certamente il professor D'Arrigo, a non sminuire il fatto che da una riforma del genere possono arrivare anche alcune centinaia. No, ma per carità, noi apparteniamo alla parte magari minoritaria che vorrebbe che fossero di più, ci mancherebbe. Maratti. Punto fondamentale, qual è che sono i veri risparmi? Non tanto quelli diretti, sono i risparmi indiretti. Intervenire sul titolo quinto della Costituzione, cioè su cosa fa lo Stato e cosa fa le regioni, e riportare alcune competenze dalle regioni allo Stato, crea le condizioni, certo nel corso del tempo, per risparmi molto consistenti. Pensiamo chiamo l'accentramento delle competenze sui porti. Allora, io ho accumulato un fastidio nel corso degli anni per quelle cose che in questo paese si ripetono da 30 anni e non si fanno mai. Una di queste espressioni è: l'Italia deve essere la piattaforma del Mediterraneo, no? L'abbiamo sentita per 20 anni. Non si è mai fatto. Perché? Perché dei 23 porti italiani, che con grossa fatica abbiamo ridotto a 14 con la riforma del Rio sulle autorità portuali, le competenze sono a metà fra Stato e Regione, e quindi il fatto che le navi, quando arrivano dal canale di Suez, preferiscono andare a Rotterdam, fare il giro, piuttosto che arrivare su questa presunta piattaforma che non siamo, è anche dovuto al fatto che è stato impossibile da parte dello Stato promuovere una vera politica di competitività del nostro sistema infrastrutturale su porti e aeroporti. Con la riforma lo possiamo fare ora, vuol dire che il giorno dopo ci sono 100 milioni sul bilancio dello Stato? No, ovviamente, ma si creano le condizioni per accrescere la competitività del nostro sistema industriale, della nostra economia e quindi anche delle casse pubbliche. Potrei parlare degli assegni di invalidità, della lotta alla povertà. Tutti questi interventi sono stati frazionati con le regioni. No, no, ma io... E il fatto che vengano accentrati allo Stato crea le condizioni per efficientarle e per risparmiare non, potenzialmente... La domanda qui non era sulla clausola di supremazia e gli effetti del recupero alla decisione centrale di alcune materie come la TLC, le grandi infrastrutture di comunicazione e di trasporto. Era sulle stime sui costi. Mi pare di capire che, insomma, facendo un'analisi dettagliata, un po' inferiore di quello che si diceva, è parecchio. Però torniamo tra un minuto, vi chiedo ancora un minuto solo di pausa per le informazioni sulla strada e poi torniamo ancora. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati in diretta a Conti della Belva, stiamo occupando degli effetti, abbiamo cominciato quelli sugli organi costituzionali e sui costi della politica del referendum 4 dicembre, abbiamo sentito il professor Luigi Arrigo, che è Ugo Arrigo, che ha detto voce per voce, secondo me si va non oltre 40, e il professor Marattin, che ha aggiunto considerazioni, ha detto io vi invito anche a riflettere però sugli effetti sul processo, non solo sui costi diretti degli organi, e cioè sul fatto che su materie fondamentali c'è un riaccentramento delle competenze che abbatte il tasso di conflittualità costituzionale elevatissimo tra regioni e Stato, effetto del titolo quinto, e che consente quindi decisioni con un impatto economico più rilevante. Mario. Ma io diciamo, volevo fare una considerazione più generale, perché si sente e si legge di, in caso di vittoria del no, di crolli del PIL tra 0,4 e 0,9%, in caso di vittoria del sì, spinte incredibili, però forse la facciamo un po' semplice, nel senso che diciamo, noi non sappiamo, c'è un elevato grado di incertezza della riforma, no? Cioè l'articolo 70 sarà un campo minato di conflitti di ogni tipo, no? Quindi avremo conflitti tra presidenti di Camera e Senato sulla distribuzione di competenze. La distribuzione di competenze tra Stato e Regioni non è così lineare, definita e consolidata come la si dipinge. Quindi c'è tutta una serie di potenziali conflitti che rischiano di trascinarci per molti anni a venire in una serie di conflitti di attribuzione. Quindi il beneficio economico non è immediatamente rinvenibile. Io non sto dicendo che allora mi sta bene lo status quo. Vorrei prevenire le domande e le obiezioni abituali di gente che si comporta come cani di Pavlov. Sto semplicemente dicendo che le stime di catastrofi in caso di vittoria del no o di spinte incredibili in caso di vittoria del sì sono basate su controfattuali. In realtà io temo che l'articolo 70 riscritto sarà veramente un ginepraio di contenziosi, e questo non 70, aiuterà, per chi non avesse chiaro, quello della che Costituzione disciplina sì. Nella nuova versione le competenze del procedimento normativo tra Camera e Senato. Sapete che la riforma abolisce il bicameralismo per quello che riguarda l'espressione della fiducia, attribuisce al Senato residuo di secondo livello scelto dalla Regione con componenti dei consigli che rispecchino la maggioranza, la scelta di elettori e di sindaci, solo alcune competenze, quindi ha delle competenze in materia che riguardano effettivamente gli enti locali, alcune competenze internazionali come i trattati internazionali e così via, però su una serie di materie su cui l'ultima parola resta alla Camera, può chiedere di intervenire con tempi che vengono prefissati. La lista è lunga di materie e siccome dipenderà, c'è scritto nel testo, da come si verranno formulati gli istituti di Camera e Senato e da come i presidenti si metteranno d'accordo, il rischio di conflitti di attribuzione portati alla Corte Costituzionale c'è. Che risponde Marattina a questi dubbi avanzati da Seminario? Ma guardate, onestamente sull'articolo 70, intanto sugli sfaceli se vinca il no io sono d'accordo, qui il problema non è l'inferno o il paradiso, il discorso è se passa il referendum continua una stagione di riforma dell'economia italiana, se non passa il referendum questa stagione di riforme ovviamente subisce una battuta d'arresto, questo è il punto. Sull'articolo 70 devo dire la verità, a me piace molto la semplicità, ma io non riesco a capire dove sia tutta questa complessità. Cioè l'articolo 70 elenca punto per punto le materie su cui si esprime il Senato, che sono i trattati internazionali, le riforme costituzionali e le materie ordinamentali degli enti locali, sì. Quindi le funzioni fondamentali e le leggi elettorali. Questo dice. Poi sul resto può avere, se vuole, un parere consultivo, ma il nostro ordinamento già adesso è pieno di gente che fa pareri consultivi, deve essere chiaro. Quindi sulle altre materie c'è il monocameralismo e poi il Senato può chiedere di dire la sua entro tempi molto brevi. Questo è fondamentalmente il punto. Guardate, il vero problema, dopo la riforma costituzionale, se passerà, noi stiamo in un sistema in cui la lentezza non è soltanto nel procedimento legislativo, e qui la riforma costituzionale lo accorcerà sensibilmente, non è quello che viene dopo. Il processo amministrativo, i decreti attuativi che vengono dopo l'approvazione delle leggi sono un altro fattore di rallentamento dell'attività di governo di questo paese, che ovviamente non viene toccata dalla riforma, però questo per dire che noi già adesso abbiamo un sistema ingolfato e questa riforma riduce un po' l'ingolfamento. Sui conflitti di attribuzione, ora dalla riforma del 2001 in poi, che fece il centrosinistra, che fu un errore, c'è quello che fa lo Stato, quello che fa le regioni e in mezzo una zona grigia. E in mezzo il Vietnam. Nel momento in cui la riforma toglie il Vietnam, io non riesco a capire come si possa dire che vi sono conflitti di attribuzione. Poi, guardi, se c'è una cosa che ho imparato qui in questi anni a Palazzo Chigi, è che purtroppo il modo per fare le leggi, perché in Italia noi chiediamo leggi brevi e semplici, però chiediamo anche poi che non ci siano difficoltà di interpretazione, no? Purtroppo il modo di disciplinare esattamente ogni possibile contingenza, no, per carità, non è dato, no, o comunque no, darebbe luogo a leggi non brevi ma complicatissime, quindi indubbiamente rimarrà qualche zona grigia. Lo dice a un imperfettista. Poi non c'è solo il fattore che dice lei, c'è poi l'attuazione anche del freno, ci sono anche delle fasi di totale incomprensione. Faccio un esempio che questa settimana mi ha molto inquietato, ci ho fatto due trasmissioni, non riesco a capire perché a fronte di seriali bocciature da parte della magistratura amministrativa di primo e secondo grado e dei tentativi che l'Agenzia delle Entrate, bocciata dalla Corte Costituzionale perché ha dirigenti senza concorso, ha tentato di resumare, bocciati anche i concorsi che ha tentato di resumare. La domanda è: perché non prende coloro che hanno vinto i due concorsi recenti per la dirigenza pubblica nazionale? C'è una graduatoria di vincitori e di idonei e non si capisce perché pezzi dello Stato si ostinano a non applicare le leggi in questo. Dopodiché ci fai le trasmissioni, ti telefonano i funzionari che hanno lavorato all'interno della stessa agenzia di entrate e ti dicono: Giannino, ma la verità è che, come ovvio, l'agenzia preferisce scegliersi i suoi all'obbedienza. E dico: ma questo non è lo Stato? E dici: ma come non è lo Stato? È lo Stato, come vedi, l'agenzia delle entrate sta facendo così, mica pesca dai vincitori di concorso. L'Italia è una materia un po' complessa, Carlo Alberto. Vero, però fammi fare due commenti, uno economico e uno giuridico organizzativo sul dibattito interessantissimo fra Ugo e Luigi. Ovvero, dal punto di vista economico, calcolare i costi, diciamo tecnicamente si chiama out of pocket, cioè quelli che spendiamo fuori dalle tasse, è interessante, ma stiamo parlando dei minimis, cioè 40-80 milioni non cambiano lo scenario. C'è una sensibilità importante ai costi della politica, ma sono irrilevanti nella spesa pubblica rispetto ai costi opportunità di un meccanismo di sistema paese che deve funzionare. Ricordo a tutti, signori, che noi voteremo con le mani il 4 di dicembre, ma i mercati votano con i piedi. E quindi è, diciamo, semplicemente doveroso e intelligente farsi carico di una domanda, cioè ci sono le conseguenze sul nostro voto. La nostra sovranità è limitata dal nostro debito pubblico e mi dispiace dirlo perché fosse diverso. Tanti di quelli che sono in ascolto lo sai che non sono d'accordo. Ho capito che sono d'accordo, è limitata nel senso che non possiamo essere irresponsabili nel valutare le conseguenze. Siamo tutti d'accordo che gli Armageddon non ci sono, ma non è necessario che siano Armageddon. 50 punti base, 80 punti base in più sullo spread, che hanno già cominciato manifestarsi rispetto per esempio alla Spagna, non sono proprio del tutto ignorabili, e non è detto che siano contingenti, potrebbero addirittura risultare strutturali. E fammi dire invece un commento giuridico organizzativo. Io lo so che voi tutti sognate la perfezione dell'algoritmo giuridico che risolve, lo so Oscar. Però fammi dire, io che scusa studio le organizzazioni, preferisco qualcosa di pratico. E quindi sei a favore, se capito, no, diciamo Alberto, che temo il vota sì caro Alberto. Grazie a Ugo Rigo, grazie a Luigi Marattini. Noi continuiamo sugli effetti indotti complessivi sull'economia e le banche dopo Giornale Radio. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... L'impressionismo di Zan Domenechi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ed eccoci qui tornati in diretta agli studi di Milano alle 11:07:36, la banda dei compari dei conti da Belva, oltre a Oscar, Mario, Carlo Alberto. E ci ha raggiunto per allargare la nostra riflessione sugli effetti economici del referendum, qui in studio il capo, si può dire, no? Qual è il termine giusto che bisogna dire? Io direi un grizzly, cioè l'orso, il Belve siamo noi, questo è un plantigrado. No, perché tu vuoi dire l'orso di borsa? Che No, è un'attitudine in generale, alla ricerca e al metodo, così è. E insomma, Gianluca Codagnone, col quale grazie di essere con noi. Ciao a tutti. Col quale naturalmente iniziare a porci la domanda più ampia, quella su cui abbiamo chiuso la parte precedente, cioè gli effetti in realtà del sì e del no sull'andamento di questioni finanziarie molto delicate, come tutte le vicende bancarie più delicate aperte, gli aumenti di capitale. Si sta votando in queste ore per una operazione, quella della Banca Popolare di Milano e Banco Popolare, sulla quale io sono molto critico. Questa è un'operazione voluta dall'alto per annegare le perdite ancora non emerse della Banca Popolare e gli NPL attraverso il sacrificio di Milano. Si dice che non c'è alternativa, non capisco perché bisogna continuare con queste operazioni, ma comunque questa si deciderà oggi, si decide senza un piano industriale congiunto, uno, si decide con un'ispezione della BCE aperta in Banco Popolare che si chiude dopo il voto di oggi della Popolare di Milano, tutte circostanze che oramai ci siamo abituati in questo paese a considerare come ordinarie, che invece puzzano lontano chilometri, scusate fammi citare dico, anche la significativa chilometri. Coincidenza fra l'opinione dei sindacati e la concessione degli aiuti statali ai prepensionamenti. Abbiamo parlato prima. Una coincidenza. E poi c'è l'operazione delle quattro banche che continuano a fetare come cumuli di letami sempre di più, il cui rigore da parte dell'autorità di risoluzione bancaria, quando ha fatto l'esame dei crediti deteriorati, è da additare al mondo come una prova di cretinaggine oppure di malafede, perché lo hanno fatto sottovalutandolo in maniera tale da impedire ovviamente la conversione dei senior. Sì, perché come se hai scritto questa si arrivava lì era il panico. E continuano a perdere. Poi c'è Unicredit, in cui questa settimana abbiamo letto che l'aumento di capitale potrebbe arrivare a 13-14 miliardi. Insomma, ci sono tante vicende. Uno, due, poi, vero o non è vero che gli investimenti diretti esteri scappano e che gli investimenti italiani diminuiscono? Che dice Codagnone a tutte queste belle domandine? Da dove inizio? Questa è l'Italia, cosa vuoi da me? Allora, sul referendum è ovvio che fuori dall'Italia, soprattutto dopo quello che è successo con la Brexit, dove David Cameron ha fatto una scommessa su di sé personalizzando l'esito, il fatto che Renzi abbia personalizzato almeno all'inizio, adesso diciamo così, si è molto stemperata questa cosa, e anche Alfano, che è il vice primo ministro, due settimane fa ha detto che il governo sarebbe andato avanti in ogni caso, però diciamo che personalizzare il referendum, oltre che essere una cosa aritmeticamente parecchio stupida, perché se tu gestisci il paese col 35% del consenso e dici che te ne vai se ti votano o no un referendum, perché il referendum è uguale a te, l'aritmetica non è neanche una funzione matematica particolarmente difficile, capire che il 65% vota per mandarti a casa se tu hai il 35%, quindi boh. Diciamo che non è stata una cosa particolarmente furba. direi che questa cosa è stemperata e noi abbiamo fatto un report al quale qualche nostro concorrente qualche settimana dopo si è felicemente ispirato, ma dicendo che... Si copia l'eccellenza. Ma vabbè. Diciamo che noi abbiamo fatto un report sul referendum dicendo che al di là dell'esito del referendario, quello che conta secondo noi è la legge elettorale, perché l'Italia viene da 50 anni di storia, che sicuramente Oscar, Alberto e Mario conoscono bene, di proporzionale o proporzionale corretto o recupero proporzionale o cose di questo genere, che hanno fatto sì che i meccanismi di decisione siano sempre delle leggi, siano sempre stati ostaggi dei ricatti di un partito più o meno grande o piccolo o grande che stava nella coalizione. Giusto per ricordarsi, e tutti quelli che mi dicono ogni volta ma non è vero, ma le crisi sono sempre state a causa delle correnti dentro il partito di maggioranza. Questo non è vero. Le crisi ci sono state anche per, ricordo solo, Lega Nord in coalizione con Berlusconi che fa cascare il governo, Bertinotti che fa cascare il governo, Prodi. Cioè ci sono state quasi sempre, perché il meccanismo di formazione delle coalizioni è un meccanismo che mette insieme una serie di partiti che votano contro un altro partito. E quindi quando tu hai una rappresentazione proporzionale del Parlamento, perdi nel famoso trade-off, scusate l'inglese, cioè nel famoso scambio tra rappresentatività e governabilità. Se vogliamo avere tutto il mondo rappresentato in Parlamento, purtroppo si perde efficacia dell'azione. Però tu hai fatto anche i conti, scusami, sulle aree di sovrapposizione fra Camera e Senato, e quei conti secondo me sono interessanti da rendere pubblici. Allora noi abbiamo fatto un'analisi che poi corrisponde a quella che ha fatto il ministro Maria Elena Boschi. Abbiamo fatto un'analisi sugli effetti che la riforma avrebbe se passasse il sì, quante leggi voterebbe il Senato rispetto a oggi, e abbiamo fatto i conti sul fatto che considerando le ultime 200 leggi votate da Camera e Senato, il Senato voterebbe solo sul 2%, perché anche questa cosa dei trattati internazionali che è scritta nell'articolo 70, il Senato non vota sui trattati internazionali, non vota se recepire il fiscal compact, vota solo su come si recepiscono i trattati internazionali nella normativa italiana, vota sui meccanismi, sulla regola di voto. Vota sui regolamenti, quei cosiddetti regolamenti, non vota sulla materia, poi vota sulla materia su altre cose, materie regionali eccetera eccetera, dove ovviamente si cerca di ridurre il fenomeno del tipo che ogni regione manda una sua delegazione a Tokyo a promuovere il turismo, ecco, si vota su questo tipo di cose, si vota per avere politiche diciamo così nazionali su settori tipo il turismo o cose del genere. Dopodiché ogni... Allora, noi abbiamo un giudizio, cioè noi, io, non è che parli per tutta la Fidentiis, però ho un giudizio sulla riforma abbastanza positivo, tutto è perfettibile, preferisco prendere l'incertezza di cui parlava Mario che andare avanti con le certezze che abbiamo oggi, francamente. Però è un parere personale, non è un parere legato a Renzi, ma di Renzi non frega assolutamente nulla, nel senso può esserci lui o mia nonna, il governo è uguale, cioè darei lo stesso giudizio sulla riforma. Questa personalizzazione, questo voto per bande, francamente è una roba che lascia il tempo che trova, è la solita... Però lo scenario Armageddon, se vince no su banche e finanze, è fondato? Ma sentiamo Gianluca che allora, è l'esperto. Allora, ovviamente il fatto che Renzi abbia personalizzato molto il risultato del referendum, ma soprattutto il fatto che se vince il no siamo davanti a uno scenario per cui non si può tecnicamente qua, cioè si può, ma diciamo sarebbe veramente stupido andare a elezioni, come le chiamano gli inglesi, snap, immediate, perché si voterebbe con due leggi elettorali. Ora, noi siamo abituati in Italia a fare di tutto, per cui anche questa cosa qua magari la facciamo. No, però, si deve pronunciare la Corte, si pronuncerebbe la Corte costituzionale, dovrebbe cambiare la legge. Diciamo, quindi... Abbiamo anche votato con una legge elettorale dichiarata poi successivamente incostituzionale. Perché, però, stavolta prenderebbero tempo. Ecco, diciamo che andare alle elezioni subito sembra tecnicamente un'ipotesi molto remota, quindi bisognerebbe avere un governo che noi auspichiamo sia tecnico, ma io temo che sarà un governo istituzionale che si prenderà carico di riformare le leggi elettorali e uniformare la legge elettorale a Camera e Senato, perché a quel punto il Senato, votato no, rimane quello che è. E ad applicare quello che decide la Corte sulla riforma elettorale. Esatto, quindi bisognerà riscrivere le leggi elettorali con la conflittualità che c'è adesso sulla modifica che vogliono e chiedere. E tutto questo che impatto ha finanziario secondo te? Ecco, allora, se noi ci prendiamo tutti questi tempi per discutere del nulla, cioè del nulla no, ma insomma di cose piuttosto importanti, ma diciamo non esattamente la priorità del paese, ecco, vogliamo dircelo. Io non lo so, diciamo che non mi aspetterei una reazione gaudente. Ecco, quindi insomma, lo scenario si passa da 40 punti incorporati verso la Spagna in questa settimana, sì, verso dopodiché 100. Vabbè, l'Armageddon io non lo so, però dipende molto da che, cioè la funzione di reazione dei mercati dipende da quello che facciamo noi. Nel senso, se c'è una reazione rapida con un governo ritenuto credibile per mandare avanti le cose, può darsi che la reazione non sia neanche così drammatica. Certo che se facciamo un governo bizantino per cui si va avanti a fare discussioni sul sesso degli angeli e sul fatto che il premio di maggioranza debba essere 22 seggi, 23, 18... Ecco, diciamo che sta roba qua non so. Però ti vedo non troppo pessimista. Sommato, no, non sono pessimista, no, nel senso che sono realista. No, nel senso che... Cioè, è ovvio che se te la devo dire come la vedo oggi, cioè, non butta bene. Ecco. Però, parliamoci chiaro, se arrivano ad applicare uno SREP alla SIFI tutto... europea italiana di 14 miliardi... Il prezzo vero lo pagano i rischi delle banche, perché stanno incorporando una proiezione di un sistema paese ancora ballerino. Possiamo dire questo? Tanti analisti internazionali. Allora, quella è tutta un'altra cosa. Purtroppo noi abbiamo sto referendum che casca nel momento in cui le autorità bancarie europee, ECB, SSM, eccetera, eccetera, DG Comp, cioè la bestia. Riprendi di qui tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci qui tornati in studio, le 11:19 primi 30 secondi, e con noi Gianluca Codagnone. Ci eravamo fermati a una questione, vista le sue considerazioni iniziali, che dicono attenzione, la legge elettorale in realtà come conseguenza della scelta del referendum è molto più importante di quanto non si pensi oggi. State attenti, perché a seconda di chi vince ovviamente o si va verso, ci torna verso la proporzionale con tutto quello che vuol dire, oppure invece si mettono in moto, si confermano processi più positivi. Però l'effetto su tutto questo, sulle vicende bancarie in corso, diceva Carlo Alberto, noi stiamo di nuovo facendo incorporare le banche come se non bastassero i guai propri per aver ritardato gli interventi di emersione dei crediti deteriorati, di ricapitalizzazione vere, adesso stanno per di più incorporando rischi sovrani. Certo, ed è un fatto, perché sono ipersensibili ad ogni variazione dello scenario istituzionale ed economico del paese. Oggi recepiscono in anticipo veramente come un sensore queste cose qua. E bisogna dirlo che purtroppo, come per la Brexit, i mercati dicono che la sterlina è l'unica opposizione alla May, io devo dire che lo spread è l'unico controbilanciamento vero in questo momento alle discussioni sul referendum. Gianluca, in che senso le analisi sono andate a mettere l'enfasi sul rischio bancario degli esiti del referendum? Insomma, Mario, vuole dire qualcosa tu? No, io volevo fare una riflessione. Diciamo, è tutto interessante quello che dice Gianluca, anche per certi aspetti anche condivisibile, però a me, io ho una sensazione, una percezione, in caso di vittoria del no ci sarà probabilmente una reazione fortemente avversa dei mercati, aumenterà il premio a rischio Italia, ci sarà una classica fase di caos che potrebbe sfociare in un governo istituzionale magari del presidente del Senato eccetera. Dopodiché terra incognita, ma siamo abbastanza abituati. Invece, come la vedo io, in caso di vittoria del sì, ci sarà quello che chi fa mercato definisce un relief rally, cioè un recupero di sollievo del rischio, una riduzione di sollievo del rischio Italia, che durerà poco e lascerà il posto a tutte le criticità reali. Badate, con questo io non voglio dire allora potete votare no perché tanto non succede niente in caso di vittoria del sì. A me viene questa percezione, cioè siamo di fronte ad uno snodo abbastanza importante, ma è solo l'avvio di un processo di riforma dell'economia che fatica a manifestarsi e fatica ad attuarsi. Quindi questa è la mia sensazione, cioè vittoria del no, un crash, dopodiché vediamo cosa succede. Vittoria del sì, un relief rally, visto che Gianluca non ha mai usato l'inglese oggi, quindi lo uso io che ho la piccola scorta. E dopodiché torniamo, diciamo, nella nostra mediocritas e nella nostra piattezza. Visto che hai puntato sul latino, io dico dum Rome loquitur, alla sagunto dei mercati, scusa. Britannia expugnata. No, volevo sapere, scusami, come incorporano le banche il rischio referendum, perché qui i numeri sono importanti. Che lingua devo rispondere? vai con l'italiano. Esperanto. Allora, diciamo questo, che sul fatto che i mercati prendano male la vittoria del no, una vittoria del no, diciamo così, non gestita, questo è del tutto, cioè è probabile, diciamo. Sul fatto che invece il sì venga preso con un relief rally che duri più o meno poco, guarda Mario, io non lo so, cioè la profondità del rally, però, al di là dell'estensione temporale, può essere abbastanza pronunciata, perché c'è un sostanziale sottopeso dell'Italia nei portafogli in giro per il mondo. E in particolare i portafogli bancari, se posso dire, sono stati ipervenduti. Al di là di quanto duri, che non so, sicuramente può essere un effetto non irrilevante, parecchio significativo. Dopodiché, sulle banche il punto è questo, che siccome l'ECB ha di fatto neutralizzato la disciplina di mercato sul fatto che un paese faccia delle sciocchezze, perché col QE, comprando i bonds di tutti i paesi, siamo sotto sedativo finanziario, diciamo, ha praticamente si è appropriata, ha distrutto la funzione di segnalazione dei prezzi, cioè la price discovery sui, diciamo, il meccanismo di formazione dei prezzi. I prezzi sono amministrati, te l'ho detto, cioè alla fine questo è il quantitative easing, è un modo per amministrare in maniera sovietica i prezzi. Diciamo, adesso, visto che Draghi stamattina dichiara che compra anche le azioni, quindi arriviamo a modificare i prezzi degli asset privati. Li vediamo se poi succede. Però diciamo che sui titoli di Stato, il cambio non c'è più. Sui titoli di Stato lo spread non si muove più, perché comunque c'è un mammut che compra tutti i bonds di tutti i paesi, e quindi si sfoga sulle banche, sui corporates, cioè sui bond delle società, e sulle azioni, che sono la parte, diciamo, più sensibile, di quello che noi chiamiamo enterprise value, cioè del valore totale di un'azienda. La parte più sensibile sono le azioni. Ora, il referendum casca in un momento in cui tutte le autorità di regolazione bancaria, l'ECB, l'SSM, Direzione Competitività della Vestager, stanno progressivamente, diciamo è un trend, però stanno progressivamente chiedendo alle banche di rafforzare il capitale per isolare e per tagliare il nodo gordiano tra stati e banche. Cioè non si vuole più vedere una banca che salta in aria e lo Stato che con i soldi dei contribuenti la salvi. E lo strumento usato è alzare i requisiti minimi di capitale, come se il capitale fosse una specie di cerottone che copre tutti i mali. Io devo dirvi, adesso io gli voglio anche bene a quelli del 5 Stelle, però si devono mettere d'accordo col loro cervello, nel senso che nel 2008... Ammesso che lo riscano, esattamente. Esatto. Allora, nel 2008 basta soldi alle banche. Adesso tutto l'organismo regolatorio si muove per evitare che gli stati diano i soldi alle banche, e questi qua escono, salviamo le banche, nazionalizziamole. Allora, cioè, notato che anche Banca d'Italia ultimamente ha un attimino di sfasamento. Infatti anche Banca bipolare, d'Italia si deve mettere d'accordo col suo cervello, nel senso che Banca d'Italia è diventata l'alfiere del sovranismo salvatutto. Sì, scusate, fatemi dire una cosa, nel senso che il governatore, i suoi sottoposti dicono delle cose e l'ufficio legale di Banca Italia sul sito di Banca Italia scrive dice delle altre. Ma questo tra un minuto ci porremo ascoltatori. Allora, il problema è che, al di là delle polemiche che non voglio fare, cioè se si vogliono isolare i rischi bancari dal cosiddetto taxpayer, cioè dal fatto che alla fine debba pagare il contribuente, bisogna accettare che le banche abbiano un capitale o delle cosiddette passività che possono venire trasformate in capitale all'istante, di un certo livello. Quindi cosa sta succedendo? Che, da come hanno riportato alcuni giornali, sembrerebbe che sia la Banca Centrale che l'SSM, che è l'altro organismo di regolazione del sistema bancario europeo, stiano chiedendo a una serie di banche, non solo italiane, per cui non c'è il complotto contro gli italiani, non solo italiane, di avere delle dotazioni di capitale più alte di quello di prima. Allora, Rewind. Cosa è successo in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti che guidano questo processo? Perché gli Stati Uniti sono quelli che guidano questo processo. È successo che la Fed chiede ogni anno alle banche americane di avere un livello di passività, cioè capitale sociale o bonds junior o senior o quello che possano assorbire le perdite, quello diciamo che così. Chiamateli come Ciccio, Pippo e Caterina, chiamateli come volete, che possono essere inceneriti in un secondo. Certo. Questo livello qui, inceneriti nel senso o inceneriti o trasformati in capitale. Immolati. Sono strumenti di capitale a copertura di eventuali perdite. Esatto, sono strumenti del passivo bancario che, alla quale le banche americane possono fare ricorso prima di chiedere i soldi allo Stato. Questo livello qui, prendiamo JP Morgan, che è la banca per cui tutti dicono quella è la Fed, non fallirà mai. JP Morgan ha una richiesta dalla Fed di avere un TLAC, che è esattamente questo numero, del 21,5%. Quindi in ogni momento la Fed può dire a JP Morgan, adesso sai cos'è la novità? Che tu questa roba qua la trasformi tutta in capitale e lo perdi tutto. Sì. Quindi ha il 21,5% del bilancio convertibile in capitale o diciamo per assorbire future perdite. Ora in Europa il recepimento della BRRD ha esteso il trattamento che si fa al capitale proprio, cioè alle azioni, che già di per sé erano diciamo il cuscinetto che avrebbe preso le perdite future prima che lo Stato o chiunque altro dovesse intervenire, ha esteso questo trattamento di capitale del capitale, così propriamente detto come lo definiamo capitale proprio, diciamo capitale così, proprio. L'ha esteso anche a dei bonds che sono diventati strumenti equiparabili al capitale, che a seconda dei vari stati, e in Italia sono solo i subordinati, ma per esempio l'Italia ha recepito quella direttiva diciamo classificando tra strumenti di capitale solo i cosiddetti junior o subordinati. Sì. In Germania hanno messo dentro anche i senior. In Francia hanno creato un'altra categoria apposta. E questa è la discussione famosa che si deve avere sulla BRRD da qua al 2018, perché ogni paese ha recepito la direttiva sui salvataggi bancari in una maniera diversa. Sì. Non è se la recepiamo o no, è come la recepiamo. Per cui in tutti i paesi questa cosa è stata recepita diversamente. Tornando a bomba sulle richieste che abbiamo visto sui giornali in questi giorni all'Unicredito, eccetera, eccetera. Allora, sembrerebbe che ci sia stato, lo leggiamo dai giornali perché comunicazione ufficiale non ci sono, quindi, però sembrerebbe che la ECB o l'SSM abbiano chiesto ad alcune banche di aumentare, di avere una dotazione di capitale più alta di quella che avevano prima. Diciamo, secondo le nostre analisi, le cosiddette global SIFI, che sono 124, cioè sono 124 le banche sistemiche. Le banche sistemiche. In Italia è solo Unicredito. Unicredito non c'è Intesa, tanto per essere chiaro. Sembrerebbe che che alcune global SIFI abbiano avuto delle richieste, tra cui Unicredito, diciamo, perché sono usciti due articoli di giornale, lo dicono, che chiedano fino al 14% di Quartier One, di capitale proprio. Le global SIFI stanno tutte più o meno intorno al 12% in questo momento, che sarebbe una richiesta veramente mai vista prima, sembra un numero veramente alto, però questo sembrerebbe. E sembrerebbe anche che a tutte le altre banche più piccole, a cascata, tramite il regolatore nazionale, siano venute delle richieste in quel senso. E in un contesto regolatorio e istituzionale complesso, l'accesso al mercato dei capitali delle banche si fa difficile, diciamo in questo senso il legame al referendum. Il legame al referendum è che, mentre ci sono le incertezze sull'Italia legate al referendum, è arrivata anche questa cosa qua, che peraltro era abbastanza prevedibile, se è vera. Le linee sono quelle perché che conosciamo. Esatto, questo qui è un trend che va avanti dal 2008, non è che c'è arrivato adesso. Eppure diremo che è arrivato adesso, no, perché è frutto di un complotto. Ma certo. Sì, vabbè, ovvio. Ma guardate, scusate, adesso io vi richiamo a un'esigenza, a parte che c'è il tempo che è passato. Ci richiamano. Guardate che a seconda di chi vince, questa vicenda delle conseguenze sulle banche, di quello che sta avvenendo, ciascuno di chi ha vinto e perso dirà che è per l'effetto del referendum, che non c'entra un benemerito, posso dire cazzo di niente con tutto questo, perché questo ha a che vedere con i giochetti della politica italiana e le collusioni del regolatore italiano, a cui torniamo appena finiamo questo pezzo qua. Collusione, cioè quello che dice da una parte e quello che dice dall'altra. Sì, sto parlando della Banca d'Italia. Vabbè, mi espongo e metto la testa sul ceppo. Ma invece queste vicende che avverranno, perché è impensabile che la vicenda MPS vada avanti senza stile di sangue, diciamo, e sono ottimista, che la vicenda Unicredit si chiuda con aumenti di capitale come quelli che immaginavamo fino a qualche settimana fa, che la vicenda delle quattro banche risolte non comporti un aggravio esponenziale dell'esposizione dell'intero sistema bancario, che ha già impegnato 3 annualità del suo fondo di risoluzione e che ha già cominciato a chiedere i soldi ai correntisti delle altre banche. Tutto questo è un rotolamento che produrrà degli effetti. Se siamo del settore, dobbiamo dirlo a chi ci ascolta, e non c'entra niente col referendum, ma la politica dirà che è colpa di chi ha votato il referendum. Scusate, io sono brutale, adesso dobbiamo sospendere, ma ricominciamo di qua. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta. Facciamo partire la sigletta col nostro felliniano, per dare l'idea che, come ogni settimana, ci poniamo la questione di una dichiarazione di autorità pubbliche, politiche, oppure di qualche imprenditore, banchiere, eccetera, che ci faccia riflettere sui problemi della comunicazione italiana. Allora, questa settimana che cosa è capitato? È capitato che Salvatore Rossi della Banca d'Italia abbia ribadito, peraltro, ufficialmente, ma con una certa forza, il 12 di ottobre è capitato, il giudizio attuale che viene espresso dai vertici apicali della Banca d'Italia sulla direttiva BRRD, sul bail-in, sul burden sharing, che vede Banca d'Italia esprimere giudizi netti. E Salvatore Rossi ha detto che il bail-in mina la fiducia dei mercati e la solidità delle banche. Queste sono espressioni testuali. E tutti noi che facciamo questo mestiere, ovviamente, siamo costretti osservare che se uno va sul sito della Banca d'Italia trova ancora, perché poi sono espressioni del 2015, le giudizi ufficiali dati dalla Banca d'Italia sulla direttiva BRD, quella stessa di cui esponenti apicali della Banca d'Italia dicono che mina la fiducia dei mercati e la solidità delle banche, e quello che dice la Banca d'Italia nella sua opinione del 2015 è che la direttiva BRD ha il senso positivo di finalmente girare pagina rispetto a una lunga fase nella quale i costi delle risoluzioni bancarie si sono sommate a spese del contribuente e ai rischi sovrani, dando un quadro di certezze nuove e diverse molto positive. Allora la domanda diventa: come è possibile che, mentre questi giudizi siano quelli dati da Banca d'Italia ufficialmente sulle norme da una parte, e che, ripeto, restano sul sito, dall'altra possano convivere con le dichiarazioni che vengono rese dai membri del direttorio della Banca d'Italia? Ecco, questa è la domanda. Abbiamo una banca di lotte di governo. Cosa devo dirti, Oscar? Il sogno del nostro giovanile, la nostra giovanile illusione di un'istituzione liberale, purtroppo lascia spazio a queste contraddizioni. Cosa vuoi che ti dica? No, cosa vuoi che ti dica? Questo mi sembra un po' pilatesco. Come è stato giudizio. Confusionale, però. Tu dici stato confusionale, lui dice, lui fugge da redare un giudizio. No, il giudizio si dà da solo. Quando un'istituzione si contraddice in termini, che cosa dobbiamo dire? Segnalarlo, farlo presente. Scusate se interrompo questo dialogo divertente. Prego. Però no, il problema vero è che c'è il tema, Oscar, dell'acclimatamento. No? Cosa vuol dire? È vero. A cosa? È vero. Allora, il tema sollevato da Rossi era che bisogna farlo con più calma. No, anche da prima. Sì. C'era l'acclimatamento, cioè ci voleva come un periodo, come i vecchietti che vanno al mare, sì, devono farlo con calma. Ci voleva un periodo che forse ritenuto adeguato, non so, 100 anni? Sì, qualcosa del genere. La norma è del 2013. Allora, la BRD è introdotta nel 2013 dopo numerosissime discussioni, lunghissime discussioni, un trend internazionale che, ripeto, c'è, dal 2000, c'è da quando fallisce Lehman. Mm. Ok? Da quando fallisce Lehman parte tutto un altro film sul business bancario, perché lo Stato americano è costretto poi a intervenire, non salva Lehman, ed è costretto a intervenire per salvare tutti gli altri. Sì. Quindi da lì parte tutto un trend nuovo che dice sostanzialmente alle banche, per metterla semplice, finitela di fare il vostro mestiere con un livello di rischio così alto. E di azzardo morale, sì, diciamo così. Perché qui, se no, gli utili sono vostri e le perdite sono nostre, del contribuente. Cioè, le utili sono degli azionisti e le perdite sono del contribuente. Quindi finitela lì, alzate il capitale, o gli strumenti di capitale, che sono gli strumenti che proteggono il contribuente dalle vostre perdite. Sì. Questa roba qua parte nel 2008, non è che è una cosa che viene giù da Marte, capito, nel 2015. Dopodiché in Europa questa cosa viene tradotta in una legge che viene approvata nel 2013 e che dà un paio d'anni di tempo alle banche per adeguarsi. Quello che il sito di Banca d'Italia, che è scritto probabilmente dal legal di Banca d'Italia, dice in una maniera testuale, in questo modo dice: le quattro banche risolte a dicembre, che sono il punto cardine in cui perdono i soldi 370 milioni di sottoscrittori dei bond junior, dell'Etruria, Cari Ferrara, Chieti. Dice, se noi avessimo gestito la risoluzione, cioè esattamente è un fallimento, no? Una procedura di bancarotta delle quattro banche, usando il testo unico bancario italiano in vigore prima della BRRD, le perdite sarebbero state identiche. Ora, io di cosa discutano gli altri a Banca Italia dopo che il loro ufficio legale scrive questa cosa qua? Io veramente non so di cosa parlo. No, ragazzi, io capisco che cosa, fate dei mestieri per cui non potete spendere giudizi, tocca a me che mi devo esporre di più. No, ragazzi, no. Perché l'indirizzo del dibattito pubblico italiano lo danno le dichiarazioni del Salvatore Rossi tutti i giorni, apicale della Banca d'Italia. Quindi è un problema molto rilevante quello di un paese in cui l'autorità di regolazione bancaria ispira l'ABI in posizioni sempre più estreme, perché la dichiarazione di Patuelli... basta vederle, perché le dichiarazioni di Patuelli sono: c'è una cornice regolamentare complottarda contro l'Italia, bisogna farla finita con la BRRD, bisogna che lo Stato ribalti l'impostazione della BRRD, quella stessa che la Banca d'Italia definisce positiva sul suo sito. Ecco, questo è quello che è diventato il dibattito pubblico italiano, questo è quello che alimenta l'irresponsabilità dei partiti, questo è quello che alimenta l'eccesso e la radicalità delle opinioni pubbliche nei dibattiti, per cui appunto ci scrivevano prima gli ascoltatori e leggevamo che cosa ci scrivevano sul fatto, piantatela, nazionalizzare non vuol dire dare soldi pubblici. Non vuol dire dare soldi pubblici. Questa roba qua, se si ha un'autorità di regolazione i cui vertici apicali si fanno riprendere tutti i giorni dai giornali dicendo la stessa cosa, è molto grave. E quindi non mi può andare bene la risposta ufficiale, però sul sito c'è, il legal fa questo, non mi può andare bene, perché questa roba spinge gli amministratori delle banche ad avere atteggiamenti non trasparenti, perché questa roba spinge incessantemente a non affrontare radicalmente i problemi, perché questa cosa crea la slavina, le quattro, MPS, Popolare Milano, Unicredit, nasce da questa mancanza di lineare chiarezza. Un tempo i governatori della Banca d'Italia avevano parole scolpite, non mille linguaggi e 100 portavoce. Rimpiango quel tempo. Ma poi, tra l'altro, se posso dire, nel merito, la BRRD, cioè la risoluzione che isola i rischi sulla banca e isola le perdite sulla banca che le ha prese, serve a evitare il contagio. Esatto. È lo strumento migliore, cioè, perché fa delle porte tagliafuoco fra i sistemi bancari. Qui in Italia ti dicono: ma no, non hai visto? Sono venute giù tutte le banche quando hanno risolto le... quando hanno fatto la risoluzione delle quattro banche italiane, sono venuti giù tutti i titoli di tutte le banche, quindi non è vero. Allora, a prescindere dal fatto che quello lì succede, quel fenomeno succede mentre in Portogallo, ed è la solita questione di correlazione non causazione, succede mentre in Portogallo la Banca Centrale Portoghese applica la BRRD in maniera totalmente arbitraria, isolando 5 bonds su 50 emessi, esatto. E caricando la perdita non secondo il pari passo, certo, ma sì, buttandola tutta, non secondo quelli della par condicio, sì, di tutti, esatto, i crediti, non su tutti i bond in maniera omogenea, no? Non, sì, prendono la base, una base uguale di tutti i bond emessi da questa banca che era BCP e gli spalmano la perdita a tutti, no, ne prendono 5 che erano in mano investitori istituzionali, esatto, e martellano solo quei 5. A quel punto, di fronte a quel tipo di applicazione della BRRD, che peraltro non era in vigore, per cui hanno applicato una specie di simulacro, tutti i bond delle banche europee junior a gennaio, febbraio, marzo vengono giù, perché gli investitori dicono: vabbè, ma allora, cioè, cos'è che fate in Europa? Se non rispettate, prendete i contratti, fate le robe così. Quindi, e ovviamente gli italiani hanno detto subito: eh no, ma no, è colpa delle nostre quattro banchette, che manco, secondo me, sulla stampa internazionale, manco le avevano viste. Quindi, come al solito, si mischiano le carte. Però hai citato la banca portoghese. Posso richiamare l'attenzione sul fatto che adesso, quando si parla di conversione dei bond in Italia, ancora una volta si tende a dire: ma convertiamo solo quelli degli istituzionali. Ancora un'altra volta. Cioè, non si può fare. È una violazione patente del principio del pari passo. Anche questa roba qua. Oggi, esatto, nei giornali però mi sembra che il Sole lo dica, no? Devono offrirla. La conversione dei bond Montepaschi va offerta anche a Rite. Cioè, non è che è una, sì, esatto, non è che è una roba che la decidiamo qua noi quattro. Esatto, cioè, esatto. Esiste una roba che in legge si chiama pari passo. Esatto. Per cui, che vuol dire in latino, che, vuol, sì, dire che vuol dire che sardo, le stesse categorie dei bond, che hanno gli stessi, hanno la stessa, scusate ma il termine per forza inglese, seniority, cioè hanno la stessa sovraordinazione, diciamo, sovra o subordinazione, sì, cioè, sì, per, sì, cui, sì, a categorie che hanno le stesse bisogna dare lo stesso, le stesse caratteristiche legali, bisogna dare lo stesso trattamento. Sì, ma Gianluca, quanti mesi sono passati dall'annuncio di Renzi a luglio del primo piano e tutta la stampa col codazzo a dire: ma il retail verrà risparmiato. Adesso, dai, adesso che si avvicina alla resa dei conti, e però forse, sì, vabbè, ma dai, però se posso, basta con Renzi, da chi se ne frega, no, cioè, il ho capito mica l'ho detto io, l'ho detto io. Pare che Renzi sia presidente del consiglio di questo paese. No, hai ragione, però no. Vabbè, non è, quindi sì, però si porta dietro la stampa che è in condizioni di fragilità economica e finanziaria e ha bisogno di essere filogovernativa per definizione. Top, perché abbiamo ecceduto nella nostra passione e quindi abbiamo calpestato ascoltatori, telefonatori, eccetera eccetera, e adesso dobbiamo aspettare un minuto perché poi dobbiamo chiamare il nostro Renato Cifarelli. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Ed eccoci tornati in studio in questo nostro, ci siamo un po' troppo appassionati su questo vicino delle banche. C'è Renato, Renato Cifarelli, ci sei? Pronto, buongiorno, come state? Tu sei lì che chiudi deal con la tua impresa, impili soldi, fai come sempre, le tue cose, sì, da paperone. No. No, io oggi sono stato a casa perché siccome sapevo che c'era Gianluca, ho preparato le arance. Ecco, sì. Sono... le arance per la galera. C'ho qua le arance, adesso poi quando i nostri amici della Banca d'Italia si arrabbiano, sì, sono disponibili a portarle. Ma intanto io sai, sono a tempo, sanno tutti che sono a tempo, non c'è problema. Tanto sai che dobbiamo fare i turni, che uno sta sempre a casa per, esatto, portare le arance. Eh no, per portare le arance agli altri, esattamente. Questa settimana, sì, che cos'è che ti ha mandato in solluchero? Siccome vi vedo belli carichi sul discorso di come i giornali presentano la manovra, sì, allora io ho questo vizio di leggere anche gli articoli oltre ai titoli, allora leggevo l'articolo, quello sul Industria 4.0, no? Che parla di 15 miliardi. No, 15 miliardi però, sì, chiaro, non ce li mette il governo, 15 miliardi è la stima degli investimenti privati che a leva si muovono per 1.1, dovrebbe essere, sì, però più o meno sai, se tu leggi l'articolo, così parlo, sembra, di una manovra da 24 miliardi, sì, quindi, di cui 15 miliardi vanno... Non è così, non è così. Peccato che poi se vai a vedere la stima per il governo per il 2017 è di 347. 7 milioni. Esatto, sì, appunto. Questo, vabbè, quindi, ma questo, vabbè, bisogna essere un po' di cosmesi, no? Per fare capire da una parte agli imprenditori dire stiamo facendo molto per voi, dall'altra ci titola così perché invece sta dicendo lavoratori dipendenti pensionati, tutto per le imprese, Renzi. Questi sono purtroppo i difetti del giornalismo politicamente orientato, per così dire, che sui numeri pattina per di più con un'elevata ignoranza, quindi pattina su un ghiaccio molto sottile. Pattina su altre cose, diciamo. Esatto. Quindi questo bisogna essere sinceri da questo punto di vista. No, io volevo precisarti che però tu sei un imprenditore, quindi sei anche tu un lavoratore, meglio essere un modestissimo, pezzentissimo lavoratore autonomo. Sai che anche quest'anno c'è una bella cosa in legge finanziaria, cioè aumentano la no tax area per i pensionati, da cui parlano quella dei lavoratori dipendenti. E mi sembra una bella cosa. Solo per noi pari, assurditi, striscianti, vermi, evasori, miserabili, distruttori di coesione sociale, anemici e anomici, proprio siamo irriducibili, noi lavoratori autonomi. A noi col cazzo che ce la danno! Col cazzo, hai capito? Anche quest'anno. Ma perché? Ma cosa vi abbiamo fatto? Perché? E io sono felice per i pensionati, sono felice, davvero. Mi sembra una cosa di equità quella della no tax era uguale per tutti. Perché lo Stato deve stabilire a seconda del cesto di reddito, vitale, il reddito su cui me la dà più alta e più bassa? Ma perché, Carlo Alberto? Ma tu hai gli studenti, come cazzo fai a spiegarglielo se te lo chiedono? No, Cirio. E io neanche quest'anno me la prendo, cari autonomi, anche quest'anno siamo i sudditi, più sudditi di tutti, capite? Perché voi evadete, noi evadiamo, e quindi a noi la taxare come gli altri non ce la danno, perché siamo dei miserabili. Sapete perché siamo dei miserabili? Perché ci facciamo trattare così, questa è la mia. Perché io vorrei lo studente che a Carlo Alberto gli dice, me lo spiega professore, siccome lui non è in grado di dargli una spiegazione coerente, dice professore, e allora dobbiamo insieme cambiarlo questo paese, maledizione. Perdona Renato, lo so che gli imprenditori, noi piccoli autonomi, però sai com'è. Renato, tu spendi qualche soldo sul 4.0, facci capire. Ma noi spendiamo soldi su 4.0 da qualche anno, per la verità, cioè non è che aspetto, guarda, la verità vera poi è che le imprese vere, se devono fare gli investimenti, li fanno, che ci siano gli incentivi, no, che non ci siano gli senza incentivi. Aspettare che sia il governo a dirti come la rivoluzione è in corso. Senza che tu aspetti che il governo ti dica cosa devi fare o cosa non devi fare, perché di solito il governo è anche in ritardo di qualche anno. Sicuramente è una grossa opportunità questa per cercare di far ripartire gli investimenti. No, ma una cosa carina c'è, tra l'altro, la quota base del 24% che vale per qualsiasi sia la tua conformazione aziendale, quindi che tu sia una società di capitale o una società singola, è una cosa carina. Oscar, ti converrà fare un SAS. Questo per l'aliquota IRES che scende. Sì, mi converrà far quello. Ma comunque vedrai che troveranno il modo di farmi pagare di più per quello, solo perché mi chiamo Oscar Giannino e sono cretino e non ho titoli. Che vuoi fare? Grazie all'intera compagnia. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Continuate sulla 24.